Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci cari ascoltatori, le 7:18 minuti, mancano 3 giorni alle ferie di 24 mattino. Andiamo in vacanza 5 settimane da venerdì. Venerdì siamo regolarmente in onda. Oggi di cosa parleremo? Beh, abbiamo visto ancora Strasburgo condanna l'Italia dicendo vanno approvate una legislazione, va fatta una legge che riconosca anche il diritto alle persone dello stesso sesso di avere un riconoscimento, non chiamatelo matrimonio, ma un riconoscimento. Parleremo di questo, ma all'indomani anche di questa vicenda, di un'altra sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto abbastanza scalpore, e cioè si può cambiare sesso per una persona che è affetta da cosiddetta disforia di genere, cambiare sesso pur senza fare operazione. E avremo ospite Sonia Marchesi, che è nata uomo ma ora appunto è donna per la legge pur non avendo cambiato il sesso dal punto di vista chirurgico. Sarà con noi, così come sarà con noi Massimo Gandolfini, che è presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, già nostro ospite in passato. Parleremo anche con l'avvocato di Sonia Marchesi, insomma parleremo di questo dibattito dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È mercoledì 22 luglio, i titoli, oggi non c'è un titolo che si impone sugli altri, quindi ogni scelta, ogni giornale fa una scelta diversa. Il Sole 24 Ore apre sul rientro dei capitali verso la proroga soft, prenotazione entro il 30 settembre e poi l'invio dei documenti. Insomma, è la voluntary disclosure. Il Corriere della Sera. La Libia, i 4 italiani rapiti, la pista dei trafficanti, questo è il titolo di prima pagina. E poi Strasburgo, appunto, la corte che condanna l'Italia per Repubblica, la condanna dell'Europa, coppie gay, Italia in ritardo. Questo è il titolo di Repubblica, mentre la stampa, monito all'Italia, ora riconosca le unioni gay. Avvenire invece la mette così, le nozze gay no. La Corte Europea, Roma, riconosca le unioni civili, ma nessun obbligo di introdurre il matrimonio. Per il Messaggero, rapiti in Libia la pista scafisti, dunque anche il Messaggero apre sulla Libia, mentre il Manifesto mette la foto di 2 uomini sposati, diritti al cuore. Questo è il titolo di prima pagina, che apre invece con tematiche ancora diverse. Il Giornale, ecco chi è davvero l'uomo che ha inguaiato la sinistra al profilo del dottor Tutino, colui che è al centro della famosa intercettazione che c'è, non c'è, con Crocetta. E il Fatto Quotidiano invece, la lobby del tabacco finanzia Renzi e poi incassa lo sconto. È un esame di chi sta finanziando la fondazione, legittimamente, la fondazione Open di Renzi. Libero invece, i giudici ne licenziano 20.000, è la guerra dell'Ilva, entro venerdì l'alto forno di Taranto deve essere spento per ordinanza di un giudice. Significa la morte della seconda acciaieria d'Europa, la perdita di mezzo punto di PIL e di migliaia di posti di lavoro. E pensare, scrive Libero, che non c'è neppure una sentenza. Va bene, come vedete aperture diverse, ma anche dibattito politico strampalato, è il 22 luglio e quindi oggi su tutti i giornali troverete il dibattito che riguarda Lady Like, passata con questo nome, Alessandra Moretti in realtà, candidata di recente in Veneto, ha perso di gran lunga con il governatore riconfermato della Lega Luca Zaia. Perché Lady Like Alessandra Moretti è tornata sui giornali? Perché in una festa del PD a Verona, ha detto in pratica, tra le cause, non la causa principale, ma tra le cause della sconfitta in Veneto c'è anche il fatto che chi mi ha seguito dal punto di vista della comunicazione mi ha vestita come un ferrotranviere. Insomma, sono stata snaturata nel mio modo di essere donna, quel ladylike che le avevano sempre imputato di essere, quindi sempre molto curata, di andare dall'estetista, eccetera. E in effetti ci sono delle foto su tutti i giornali di come in campagna elettorale abbia mostrato invece dei vestiti più castigati. La Moretti accusa gli stilisti del PD, mi hanno vestita da tranviere. Capito che questa frase, che poi è stata parzialmente smentita di La Moretti, ha detto ma certo non è che l'abito fa il monaco e quindi non è che ho perso per gli abiti, ma il dibattito è partito. Potere della comunicazione, appunto, vestita da ferro tranviere, ho perso. Anche il Corriere della Sera dedica una pagina con tanto di due foto, una in vestito rosso molto femminile, pre-campagna elettorale, e una vestita con un castigato vestito da ferro tranviere, evidentemente usando le parole di Alessandra Moretti. Lo sfogo di La Moretti: per essere credibile una donna non deve assomigliare a un uomo, l'errore della mia campagna di comunicazione. Anche Repubblica dedica una pagina con commento di Filippo Ceccarelli: lo sfogo della Moretti, ho perso per il sostegno a Renzi e un look da tranviere. Come al solito la sintetizza bene Iena sulla Stampa a pagina 3. Grazie a Lady Like, ora il PD ha perso pure il voto degli autoferrotranvieri. Questo è il dibattito politico, per carità, non più profondo, che trovate sui giornali oggi. Ma trovate qualcosa anche delle commissioni. Hanno rinnovato le commissioni parlamentari. Lo so che non vi interessa un fico secco di sapere chi sono i presidenti di commissione. A malapena gli italiani sanno, 9 italiani su 10 sanno chi è il presidente della Camera e chi del Senato. Ma non mi interessa anche spiegare chi sono i nuovi presidenti di commissione. Mi interessa per introdurre l'intervista di Paola Di Caro sul Corriere della Sera a un ex presidente di commissione, la Commissione Cultura alla Camera, Giancarlo Galan, condannato, meglio, ha patteggiato una condanna a 2 mesi, a di più, per la vicenda del MOSE, ha patteggiato, ma era ancora presidente della Commissione Cultura. Ora c'è stato il rinnovo delle cariche, quindi Galan non è più, per qualcuno, finalmente presidente della Commissione Cultura. E parla al Corriere nel giorno in cui cessa di presiedere la Commissione. Parla della sua condanna a 2 anni e 10 mesi, questa è l'entità del patteggiamento. È una sentenza arrivata dopo una lunga detenzione. Io sono innocente, continua Galan, ma ho patteggiato perché in 2 mesi di carcere ad Opera, dove fui rinchiuso nonostante una gamba fratturata, una trombosi venosa, persi 20 kg per la sofferenza. Mi dissero che mi fecero capire che mi aspettava il giudizio immediato, ovvero altri 6 mesi di carcere, poi probabile condanna da scontare ancora in carcere. Per tutto questo, pur da innocente, ho patteggiato. E perché non ha lasciato il posto da presidente della Commissione Cultura? Perché dal Parlamento, dice Galan, mi sarei aspettato di essere tutelato. Non potevo muovermi, ero malato, non hanno voluto aspettare, insomma non chiedevo molto. E invece come l'han trattata? Omissis. Così penso dei miei colleghi di Forza Italia. Omissis vale come risposta? No, sul serio. La politica è meschinità e grandezza. Io chiederò la revisione del mio processo, ma chiedo ai miei colleghi perché non si sono stupiti che in una vicenda grande come questa del MOSE nessun esponente di peso della sinistra, nessun ministro, ma solo io e Matteoli siamo stati coinvolti. È verosimile? E Berlusconi, Galan, le è vicino? Diciamo che spero di sentirlo più vicino. Vabbè, tornerà alla politica? Mai, mai, mai, per nessun motivo. Ho avuto tanto dalla politica, ho fatto cose per il Veneto che so resteranno, ma quando chi ti è stato vicino per anni non prova a sollevare un dubbio, capisci quanto brutta e meschina possa essere la politica. Dopo 30 anni di politica, Galan ha maturato questa convinzione. Intervistato dal Corriere della Sera. Ho 2 notizie di cronaca. Una è questa: cari nonni, state attenti. A Sassuolo, come racconta Il Giorno, a pagina 17 è arrivata una sentenza nei confronti di 2 nonni oppressivi. Così almeno giudicati dalla famiglia, dalla madre di 2 nipotini che ha denunciato per stalking i nonni di 71 e 70 anni accusati di volere guidare la vita della loro nipotina. E il bagnetto è troppo caldo, e la merenda è scarsa, e ha dormito poco, e dorme troppo, accusati di stalking, ma bisogna arrivare a questo punto. Il tribunale ha stabilito che questi due nonni siano condannati per stalking e non potranno vedere i nipotini, cosa che continuano a non fare ormai da tempo, cioè è confermato. La più grande ormai ha 11 anni, il più piccolo del 2010 addirittura non l'hanno mai visto perché la mamma ha deciso di denunciare questi genitori troppo invadenti e il tribunale ha dato a lei ragione. Questi nonni, 2 mesi di carcere, ovviamente che non sconteranno, per stalking e non potranno vedere i nipotini. Succede anche questo, Sassuolo, Italia. Ma siamo all'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. L'articolo che ci fa più incazzare della giornata appare a pagina 11 del Secolo XIX, è di Giuliano Gnecco. Fido beve acqua al bar? Paga 30 centesimi. Un locale di Treviso, con tanto di scontrino che viene ripreso e messo su Facebook dai proprietari del cane che si sono fermati a prendere un aperitivo e hanno detto per favore può dare anche una ciotola d'acqua al nostro cane, si sono visti addebitare sullo scontrino con tanto di voce acqua cane 30 centesimi, acqua cane 30 centesimi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? Eccolo, uno dei migliori delle nostre sigle, 0246524492. Continuate a mandarle, poi da settembre le manderemo in onda, ovviamente anche quelle regionali, mi piacciono quelle dove ognuno usa la propria inflessione dialettale, le proprie espressioni per le nostre sigle. Allora, come detto, ci sono tante notizie, vorrei saltare qua e là per raccontare quello che oggi i giornali ci dicono, a cominciare dai 4 italiani rapiti in Libia. E si sa poco di questo. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 2 del Corriere della Sera, che si ipotizza che ci sia un'indagine tra gli scafisti, cioè possono essere finiti in mano a persone che trafficano migranti nella zona di Zuara. Quindi persone senza scrupoli che guardano agli uomini e alle donne come persone che sono macchine per soldi. L'intervista più interessante però la fa Giusy Fasano a pagina 3 del Corriere della Sera, intervista Mustafa Sanallah. Chi è? È il presidente amministratore delegato della National Oil Corporation, azienda petrolifera di Tripoli, per la quale di fatto lavoravano queste 4 persone, perché la NOC, la National Oil Corporation, gestisce quell'impianto per cui collaborava l'azienda Bonatti di Parma, di cui erano dipendenti queste persone, oltre che l'ENI. Quindi si può dire che i sequestrati lavorassero indirettamente per questa National Oil Corporation. Sentite cosa dice il presidente di questa NOC al Corriere della Sera. Conferma quello che ieri già ipotizzava Repubblica. Sfortunatamente è stato fatto qualche errore, sono state violate le procedure di sicurezza, e cioè questi 4 italiani viaggiavano in una macchina solo con l'autista, senza nessuno che li proteggesse, e poi dopo il tramonto alle 9:30 di sera non si può fare, nemmeno noi libici ci fidiamo ad andare in giro a quell'ora. Hanno seguito l'autista e 5 chilometri prima di Mellita lo hanno fermato e lo hanno fatto scendere. Non gli hanno fatto nulla, lo hanno lasciato andare via e hanno catturato gli ostaggi abbandonando invece l'autista. Ma lancia, questo purtroppo è stato fatto qualche errore, altro che qualche errore se davvero è così. Incredibilmente, dice, non avevano una scorta e viaggiavano da soli solo con un autista. Da soli e a quell'ora, nemmeno noi libici lo facciamo. Beh, se è così, veramente portiamoli a casa. E però, insomma, che dobbiamo dire? Allora, Come detto, molti giornali aprono su questa decisione della Corte Europea di Strasburgo per i diritti umani. Si è espressa la Corte sul ricorso di 3 coppie omosessuali italiane che si sono sposate all'estero, 3 coppie italiane che vogliono anche la registrazione del loro matrimonio in Italia. Che cosa ha stabilito Strasburgo? Che l'Italia deve riconoscere con una legge le coppie gay. Siamo in ritardo. I giudici della Corte Europea parlano di vita familiare, di famiglie gay, non usano mai la parola matrimonio, escludono che le unioni gay possano essere tutelate attraverso i registri comunali e chiedono una legge sulla quale la politica è in ritardo. La politica in Italia in questi casi reagisce sempre distinto. Il ministro Boschi dice entro la fine dell'anno faremo le unioni civili. È un dibattito che continua, ne discuteremo anche noi alle 8:15, favorevoli, contrari, chi dice e c'è sempre, ma non sono questi i problemi. Questo è proprio l'SMS di riflesso che arriva a questo. Sarà mica il primo problema questo da affrontare. Non c'è mai il primo problema. Ci sono tante questioni da affrontare in un paese. Non ce n'è mai una sopra le altre, perché quando uno parla di pensioni ci sarà il problema della disoccupazione, se parli di disoccupazione ci sarà il problema della crescita, se parli della crescita ci sarà il problema dei rapiti in Libia, se parli dei rapiti in Libia ci sarà sempre un altro problema. Ogni giorno trattiamo un argomento, oggi tratteremo questo. Comunque sui giornali è molto ben presente il classico dibattitone a favore o contro. Come permane il dibattito su Rosario Crocetta? Ormai è diventato un mistero questa intercettazione. Rosario Crocetta è intervenuta anche da Roberta Giordano ieri a Effetto Notte a dire e a confermare querelo l'Espresso per questa intercettazione che non c'è, non esiste. Chiedo 10 milioni di danni. Ci sono due piani, quello del mistero sull'intercettazione e c'è il caso politico che rimane. Il caso politico intanto è che secondo il Corriere della Sera, secondo Repubblica, secondo tutti i giornali, ormai Renzi ha deciso che bisogna far dimettere Crocetta. Ma su Repubblica c'è questo retroscena, farlo dimettere ma l'exit strategy va fatta senza strappi. Goffredo De Marchis, a pagina 6 di Repubblica, a settembre il caso va chiuso, dice Renzi ai suoi, ma senza strappi, perché rimane Crocetta una persona onesta. E anche qui ci sono dibattiti sulla tempistica. Ieri i giornali dicevano che Renzi non vorrebbe votare subito per il timore di lasciare la Sicilia al Movimento 5 Stelle. Oggi invece su Repubblica c'è scritto nessun timore di votare subito. Se uno invece salta sull'unità, Claudia Fusani, l'unità a pagina 15, Sicilia, la parola chiave è la prudenza. Si va dal voto, ma nel 2016, quindi secondo Repubblica nessun timore per il voto subito. Secondo l'Unità invece Renzi vuol votare, ma nel 2016 prudenza, e già si fanno i nomi. Chi dice che potrebbe essere Davide Faraone, il candidato del centrosinistra al posto di Crocetta? Chi dice che possa essere, pensate, la stessa Lucia Borsellino? Chi parla di Enzo Bianco, attualmente sindaco di Catania? Chi invece, come Mario Aiello, sul Messaggero dice il nome che è un po' un outsider, una persona meno conosciuta. Il centro-sinistra, giura il Messaggero, sta pensando a Roberto La Galla, fino a poco fa e a lungo rettore dell'Università di Palermo. Ex assessore alla sanità con Totò Cuffaro, gode di stima generalizzata, ha partecipato alla Leopolda siciliana. È Roberto La Galla, secondo il Messaggero, il nome per il futuro del centro-sinistra in Sicilia. Sta di fatto che questo è l'aspetto politico, poi c'è quello proprio pratico. Oggi il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, intervistato dal Corriere della Sera da Giovanni Bianconi a pagina 9, fa tutta una pagina di intervista a dire la politica non cerchi appigli giudiziari per ribaltare equilibri. Parte dalla intercettazione che definisce inesistente. Mi spiace constatare che, ferma restando la libertà di stampa e il diritto dovere dei giornali di esercitare il controllo su ogni tipo di potere, ci siano ancora molti che continuano a credere all'esistenza di un'intercettazione nonostante le ripetute smentite di un organo dello Stato come la Procura della Repubblica che ho l'onore di guidare. Così dice Lovoi. Però l'Espresso conferma Certamente le registrazioni che abbiamo a disposizione, risponde Lovoi, dipingono un clima di ostilità nei confronti di Lucia Borsellino, nonché i motivi di disagio che l'ha spinta alle dimissioni. Ma proprio il fatto che abbiamo dovuto ricostruire quel contesto attraverso una faticosa operazione di connessione e incastro fra tanti discorsi spezzettati è un'ulteriore conferma che l'intercettazione di cui tanto si discute non esiste. E se fosse esistita l'avremmo certamente utilizzata nel procedimento. Dice Lovoi, questa intercettazione non c'è. Avete verificato se è agli atti di altri uffici? No, perché non è mio compito. Del resto, se un procuratore venisse a chiedermi cosa c'è nei miei fascicoli, avrei buon gioco a rispondergli che non sono affari che lo riguardano. In ogni caso, l'Espresso ha ribadito che l'intercettazione sarebbe stata registrata in un'indagine palermitana e io non posso che confermare la smentita. È il mistero dell'estate. È il mistero dell'estate. Per fortuna, noi abbiamo una persona che ai misteri estivi dà una risposta certa. E allora te lo richiedo. È la seconda volta. Esiste o non esiste questa intercettazione su Crocetta? Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma possiamo parlare, allora partiamo dall'immortalità dell'anima? Brevi cenni? Visto che siamo su delle domande poco impegnative. Se sono brevi, va bene. Va bene, allora discutiamo di cose ugualmente incerte come l'immortalità dell'anima e l'esistenza di intercettazioni. Ad esempio il calendario fiscale. Oh. Guarda, ha un po' la stessa varietà. Se tu oggi prendi il Sole 24 Ore, pagina 2 e pagina 3, sì, vedrai come il calendario è mobile. È mobile. Allora, abbiamo tutte questioni di proroghe. La proroga per la consegna del 7:30 è domani. Sì. Quella si è fissata. Però cosa fa? Rende mobile il rimborso, perché se uno ha il rimborso potrebbe non arrivare in tempo, glielo daranno ad agosto. E questa è la prima mobilità. Poi c'è una richiesta di proroga per il 7:70 che sembra sarà accolta. Lì il termine è fissato al 31 luglio, ma leggete a pagina 2. E poi c'è, come direbbe il nostro amico Angelino, la volunta ridiscrosur. Mi pare che lui più o meno la pronunci in questo modo. Sì, no? Sì. Ecco, la volunta ridiscrosur Scadrebbe a fine settembre, ma si sta pensando a un rinvio tecnico, devi dire proroga. Non è che prorogano anche le mie vacanze? Non lo so, questo mi sembra ancora più incerto, a dire la verità. Intanto ti volevo segnalare a margine, tu fai tutto il gradasso che te ne vai, ma poi lì qualcuno la rassegna stampa la farà ancora. Sì, certo. Non è che Radio 24 forse lascia la gente. Forse tu. Ma poi vedremo se poi faremo anche questo, d'accordo? Che come al fai solito dire, bisogna scucire i soliti 300.000 euro, ma tu fai dire a questa tua parente che leggi i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. Ma non è una parente. Ma penso proprio di sì, invece comunque sappi che altri prenderanno indegnamente il tuo posto durante questa tua vacazio. Comunque restiamo sulle cose serie, ti voglio dire che oltre a tutto ciò stiamo faticosamente componendo l'agenda della legge di stabilità, che se ne parlerà in autunno, ma già c'è il problema che bisogna trovare dei soldi per le assunzioni del pubblico impiego, e di questo parliamo anche oggi sul Sole 24 Ore. Sì. Scusa, per i rinnovi dei contratti, ho usato il termine assunzioni in modo un po' ottimistico, e qui tra pensioni, sgravi dei neoassunti, contratti rabbia, il conto gira già sui 3-5 miliardi, e questo tanto così per gradire. Purtroppo non abbiamo i conti di Apple, di cui invece riferiamo nelle pagine di Finanza e Mercati, che sempre devi leggere, sempre. Mi raccomando, che sono andati bene, ma la borsa ha un po' storto il naso, ma ti spieghiamo tutto nelle pagine di Finanza, perché si aspettavano ancora meglio. E poi che ti volevo dire? Devo salutare assolutamente la signora Milvia, signora o signorina, che mi ha mandato Radio tramite... No, mi ha mandato un messaggio molto caloroso e quindi io volevo ringraziarla pubblicamente. Vuoi dedicarle un disco? Ce l'hai? No, non lo so. No, però ti faccio sentire Angelino, perché vogliamo fare una verifica esatta sulla pronuncia. La volontà di discrasciur. Sentiamo. La volontà di discrasciur, che cavolo vuol dire? Mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Va bene, allora mi esercito sulla volontà di Discrasure. Guarda, Discrasure, il tempo è tiranno, ho molte altre cose da segnalarti, tra cui una vicenda che riguarda la cassa forense e 50.000 avvocati che attualmente sono iscritti all'INPS, ma che invece si vorrebbe far confluire nella cassa forense, lo riferiamo nelle pagine di Norme e Tributi. E poi guarda che tra oggi e domani è un giorno importante per il decreto legge degli enti locali. Tu dici, decisivo, a me che mi frega. Decisivo. Ti frega, perché dici dovrebbe stare la soluzione per la famosa abolizione delle province. Quindi leggi come sempre Norme e Tributi, mi raccomando, anche quando sarai in vacanza. E tutto ciò premesso, noi ci sentiamo domani. Un saluto a Milvia e traffico! Sette piazza, l'informazione, solo Milan è la soluzione. Però forza Milan, non lo dico mia, eh. Vabbè, va bene, ma mitico! Eravamo in Veneto, no, a questo punto. Cari ascoltatori, grazie per le vostre sigle regionali. Allora, il Fatto Quotidiano oggi fa i conti alla Fondazione Open, quella di Matteo Renzi. Sigarette, aeroporti, chi guadagna con Open? Raccontano Carlo Di Foggia e Davide Vecchi a pagina 7 del Fatto Quotidiano come la lobby del tabacco, in questo caso la British American Tobacco, abbia versato alle casse della Fondazione Open 100.000 euro. E racconta il Fatto Quotidiano, questo versamento assolutamente legale, legittimo, è un versamento che viene fatto dopo il 1 luglio 2014, quando qualche settimana prima il Premier aveva incontrato anche il grande capo Nicandro Durante della British American Tobacco. Il motivo era la questione dell'aumento delle accise annunciato dal governo con un decreto per riordinare l'intero settore dei tabacchi. Perché alzare le imposte? Il Fatto Quotidiano collega in maniera molto esplicita al fatto che ci sia stata questa donazione di 100.000 euro, questo finanziamento di 100.000 euro con le possibili scelte politiche di Renzi sulla questione delle accise del tabacco. Infatti il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano è molto esplicito. Vai a ritrovarlo. Comunque era la questione, eccolo qua. La lobby del tabacco finanzia Renzi e poi incassa lo sconto. C'è molta cronaca sui giornali. Intanto una testimonianza e un'intervista di Laura Montanari a una ragazza di 23 anni che nel 2008 fu, non si può dire violentata, perché c'è stata una sentenza che in appello ha mandato assolti le 6 persone che hanno avuto un rapporto sessuale con lei. In primo grado erano stati condannati per stupro, in appello sono stati assolti e ora parla questa ragazza. I miei stupratori assolti dai giudici, ma il vero processo lo hanno fatto a me. È un'intervista molto, molto dura che Laura Montanari fa a questa ragazza, pagina 18 di Repubblica. Non ho più niente da perdere, dice lei, sono dovuta anche andare via da Firenze, ho provato a tornare a vivere ma le ombre mi inseguivano, ho provato a vivere ancora nella città ma ero ossessionata, inseguita dalle ombre di quella notte di luglio del 2008, quando denunciai una violenza di gruppo dopo una festa a Firenze nel piazzale della Fortezza da Basso su un'auto da parte di 6 ragazzi. Come possono aver pensato che volessi concedermi a 7 ragazzi, dice lei, non 6, per me sono stati 7, uno è stato però assolto fin dal primo grado di giudizio, in una notte su un piazzale dopo una festa dentro a un'auto parcheggiata. Come possono aver pensato che quella violenza non sia mai esistita se da 7 anni vivo di nevrosi, dottori, fughe? Eppure il processo è stato un processo a me, perché devi convincerli di essere credibile. Mi chiedevano che mutandine usavo, mi chiedevano i miei gusti sessuali, con chi ero stata prima, per quanto tempo. Un avvocato ha preso una foto in cui sorrideva a un concerto di 3 anni prima per dimostrare, vedete, che non stava poi così male la ragazza. I giudici hanno scritto che ho una condotta sregolata, confusa, che avevo bevuto e che quei ragazzi avrebbero mal interpretato la mia disponibilità. Io non capisco niente di processi e cavilli, sento solo il male che ho ancora dentro e da quel male vorrei guarire. E ora denuncia questa ragazza, loro assolti, fanno la loro bella vita con i loro buoni avvocati. C'è uno che fa il regista, uno che si è sposato, si sono laureati, ha messo ordine nelle loro esistenze che io vedo da così lontano. I miei stupratori assolti dai giudici, ma il vero processo lo hanno fatto a me. è su Repubblica. C'è molta cronaca nera. Beh, hanno confessato i due albanesi che hanno sgozzato questo ragazzo di 17 anni in provincia di Pesaro, perché aveva avuto forse una liaison con la fidanzata di uno di questi due albanesi, sgozzato. Mentre invece Bossetti, raccontano tutti i giornali, avrebbe tentato il suicidio in carcere, colui l'unico imputato della vicenda Yara Gambirasio, la cintura stretta al collo, l'arrivo degli agenti, salvato in cella dal blitz degli agenti, Bossetti. Questo su tutti i giornali. Vabbè, dai, chiudiamo con qualcosa di un po' più leggero. Fa caldo. Fa caldo. A Genova stanno pensando, dice il Secolo XIX, di fare la siesta per legge, cioè per legge regionale, imporre per il gran caldo il blocco, la chiusura degli esercizi commerciali dalle 12 alle 17, oltre che degli uffici pubblici. Pensano a chiudere uffici e negozi durante le ore più calde. Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. Ma siamo sempre al caldo. D'altronde fa caldo. Due pagine dell'Unità, due... A 40 gradi, 40 gradi, a qualcuno piace caldo? Due pagine sul caldo. Oh, è estate. Ma chi se ne frega?